triste ancora vien giù, fioriscono le viole, canta l'usignolo quando son vicino a te. Dimmi perché il vento la sera pare che carezzi il mio bene, come serenata canta appassionato quando son vicino a te. Sei per me l'amor, la mia gran felicità. Per te questo cuor sogna sempre darsi pace, non sa. Tu chiude un lembo di cielo, anche tra le nubi lassù. Quando son vicino a te. Gran felicità, per te questo cuore sogna sempre darti pace, non sai.